L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, anche oggi abbiamo un ricco menù per riassumere in poco meno di un'ora tutto quello che è successo in Italia e nel mondo negli ultimi 7 giorni. Si va dalla nomina di Franceschini alla guida del PD, al ritorno al nucleare, poi si va dalle prime vere mosse economiche di Obama alla straordinaria sfida, per noi però anche micidiale, tra Italia e Inghilterra in Champions League. Sto parlando di calcio, naturalmente. Come sempre, 7 notizie principali, una per giorno, partendo da sabato scorso 21 febbraio e arrivando fino a ieri. E allora partiamo con i servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Una settimana fa ci siamo lasciati con Veltroni che aveva dato l'addio alla segreteria del Partito Democratico, ma naturalmente un partito, tanto più se è il principale dell'opposizione, non può restare a lungo senza una guida, senza un leader. E infatti sabato viene formalizzata la scelta per il futuro, almeno il futuro imminente che corre dritto verso le elezioni europee. Sentiamo allora da Roma Elisabetta Fiorito e a seguire l'analisi di Stefano Folli. Torna la canzone popolare, la canzone dell'Ulivo, torna un ex DC alla guida dei riformisti, torna l'idea di unità nel Partito Democratico. L'assemblea costituente del PD elegge Dario Franceschini segretario con 1047 voti contro i 92 dello sfidante Arturo Parisi, appoggiato anche da una piccola contestazione in mattinata di chi voleva le primarie subito. Ma è il giorno di Franceschini, il discorso di insediamento, più che quello di un reggente prima del congresso di ottobre, sembra quello di un segretario con pieni poteri. Io azzererò il coordinamento, il governo ombra, tutti gli organi nazionali, non la direzione che è stata eletta. Dopo l'elezione arriva la replica di Franceschini e l'appello all'unità. Adesso è veramente la stagione dell'unità. Sulle notte si farà day. Se è notte si farà giorno. Ecco, noi abbiamo dimostrato che stiamo cominciando a lavorare per costruire un giorno nuovo. Tutto rimandato a dopo le europee e le amministrative. In caso di buoni risultati elettorali però non sarà così facile per gli ex DS capitanati da Pierluigi Bersani rimuovere il segretario pro tempore. Un'elezione in tono minore davanti a un'assemblea che raccoglieva solo la metà degli aventi diritto, oltre il 90% dei consensi nell'urna. L'ipotesi di Parisi legata allo svolgimento di primarie immediate e a un generale rinnovamento largamente battuta, come se a prevalere fosse solo l'istinto di conservazione e la paura di un 8 settembre. Così comincia la segreteria di Dario Franceschini. Forse sarà senza storie di qui a ottobre, tuttavia bisogna dare atto al nuovo leader di aver tenuto un discorso più che decoroso, non privo di qualche novità. La principale riguarda la svolta laica sul testamento biologico, che è piaciuta molto a Ignazio Marino e molto dispiaciuta alla cattolica Binetti. È un segnale da non trascurare. Per il resto è cominciato davvero il dopo Veltroni, affidato a colui che fu il suo vice, fine del coordinamento e del governo ombra. Piccoli ritocchi, forse insufficienti, ma avendo scelto questa strada, di più non era lecito attendersi. Si sente dietro le quinte l'impronta di Massimo D'Alema. I suoi consigli saranno graditi dal nuovo segretario, a differenza di quanto avveniva con Veltroni. Per il resto c'è da attendere solo la reazione degli elettori e non aspetteremo molto. Nei servizi che abbiamo appena riascoltato si fa riferimento all'impronta laica imposta dal nuovo segretario, chiamato peraltro subito a districarsi nella non facile vicenda del testamento biologico. Di questo però parleremo a parte nella conclusione del nostro programma. Franceschini dal canto suo parte l'attacco di Berlusconi soprattutto sul tema della fedeltà o meno alla Costituzione. Tra l'altro Franceschini giura proprio sulla Costituzione, scelta piuttosto particolare, piuttosto curiosa del nuovo segretario. Al di là comunque delle schermaglie c'è però un punto sul quale il governo e la maggioranza in settimana sembrano disposti ad aprire all'opposizione, ovvero il disegno di legge sulle intercettazioni. Sentiamo Cristina Balotelli. Al termine della lunga riunione di gruppo del PDL alla Camera è il ministro della Giustizia Angelino Alfano a fare una sintesi. Di fiducia non ne abbiamo proprio parlato, anche perché il disegno di legge sarà trattato nella seconda decade di marzo, ha spiegato, e tutto il tempo che abbiamo lo useremo per vedere di arrivare ad una sintesi. Sulla stessa linea Fabrizio Cicchitti. Il testo della Commissione Giustizia è valido, evidentemente poi lo discuteremo in tutte le sedi opportune, e il governo nella sua autonomia deciderà che cosa fare. La questione era stata affrontata anche nel corso di una colazione tra Fini e Berlusconi, con l'invito del presidente della Camera ad un confronto più approfondito, anche alla luce dei dubbi espressi dalla presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno. Resta invece fermamente contraria l'opposizione. L'Italia dei Valori non esclude un referendum. Così Anna Finocchiaro alla RAI. Certo, la nostra opposizione a questa legge è netta, è una pessima legge che tra l'altro impedisce indagini su fatti criminosi molto gravi e quindi non capisco tra l'altro come vada d'accordo con questa campagna per la sicurezza. Nel mosaico composito, complesso della giustizia e del rapporto soprattutto con la politica, mercoledì viene sistemato un tassello molto importante che riguarda la Consulta. Sentiamo Raffaella Calandra. 7 giorni dopo la scadenza del mandato di Flick, la Consulta ha il suo nuovo presidente, il 33esimo, e subito Francesco Amirante, 75 anni, napoletano, detta la sua linea sulle principali questioni su cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a prendere posizione. Nessuna accelerazione né ritardo, mette in chiaro sulla pronuncia sul lodo Alfano, quello che sospende i procedimenti per le alte cariche dello Stato, ma solo una decisione, come sempre, dice Amirante, nella massima serenità della Corte, la cui indipendenza e autonomia va rispettata. Come rispettata è il monito del neo presidente, deve essere la libera stampa, che è la massima garanzia. Non può sbilanciarsi Amirante su eventuali pronunce della Corte sul disegno di legge sulle intercettazioni all'esame della Camera. Di sicuro invece si impegna ad affrontare molto rapidamente, ripete, la questione della distruzione dei dossier illeciti sollevata dal Tribunale di Milano nell'inchiesta Telecom. Pendente da quasi 2 anni, è stata continuamente posticipata, ma ora, assicura il neo presidente, non ci saranno altri rinvii. Chissà se mai arriverà una pronuncia prima dell'udienza del 24 marzo fissata a Milano dal GIP Gennari. Ma alla Consulta c'è un'altra delicata questione che giace da tempo, partita ancora una volta da Milano, ed è il conflitto di attribuzione tra poteri sul segreto di Stato relativo al sequestro Abu Omar. Ci sarebbe ancora molto da dire in questa settimana politica davvero fitta di avvenimenti. Non si sono per esempio placate le polemiche attorno alle ronde, anche se poi Maroni le ha definite infondate queste polemiche, aggiungendo che le norme attuative del decreto legge stabiliranno delle regole chiare. Però nelle ultime ore sono arrivate parole durissime sulle ronde anche da parte dell'ex ministro degli interni, un predecessore di Maroni, cioè Pisanu, che ha definito le ronde un vulnus alla nostra sicurezza. Ieri invece il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nuova disciplina degli scioperi nei trasporti, soltanto quindi nel settore dei trasporti. Potranno proclamare uno sciopero sindacati che hanno complessivamente almeno il 50% della rappresentanza. In alternativa, le organizzazioni che hanno almeno il 20% potranno ricorrere al referendum preventivo. L'ottavo giorno. Domenica. L'economia europea e poi tutti i suoi problemi convergono a Berlino. Il momento ovviamente è delicatissimo, quindi l'attenzione e le aspettative sono massime. Anche se bisogna tenere conto che di solito quando vanno in scena questi grandi pomposi vertici è difficile trovare qualcosa di davvero concreto oltre alle buone intenzioni e i proclami. Questa volta però sembra che i governi europei vogliono fare davvero sul serio. Sentiamo la cronaca di Anna Marino. Regole più complete per i mercati finanziari internazionali, lotta ai paradisi fiscali, impegno comune nella tutela della concorrenza, più risorse al Fondo Monetario Internazionale che andrebbero raddoppiate. Questi punti principali dell'accordo raggiunto a Berlino, città in cui è nato proprio il gruppo del G20 nel 1999. Presenti i leader di Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Olanda, nonché la Repubblica Ceca. Nella sua veste di presidente di turno dell'Unione Europea, il presidente della BCE è quello dell'Eurogruppo e quello della Commissione Europea. Controlli, soprattutto con riferimento agli hedge fund, i fondi di investimento ad alto rischio, che avranno obblighi di registrazione. Anche le agenzie di rating saranno sottoposte a registrazione e supervisione. Determinata la cancelliera tedesca Angela Merkel. Coloro che non coopereranno, ha avvertito, dovranno essere soggetti a un meccanismo di sanzioni molto concreto. These are testing times. Preciso nei conti il premier inglese Gordon Brown. Le istituzioni internazionali hanno bisogno di almeno 500 miliardi di dollari per uscire dal tunnel. Per il leader francese Sarkozy, il vertice di Londra sarà l'ultima possibilità. Sul fronte italiano, invece, il giorno proprio precedente, il vertice di Berlino, incidono profondamente le parole di Draghi. Il governatore della Banca d'Italia, com'è nel suo stile, non bada a compromessi quando deve delineare la situazione del nostro paese. Deborah Rosciani. Ristabilire la fiducia nelle prospettive del lavoro e del reddito, perché la crisi non ha ancora del tutto manifestato i suoi effetti negativi. Le banche devono continuare a far pulizia nei bilanci, a fornire credito alle imprese, a rafforzare i loro patrimoni. Questi punti salienti dell'intervento del governatore di Banca Italia, Mario Draghi, davanti agli operatori finanziari riuniti a Milano per il 15° Forex, discorso che apre subito all'allarme occupazione in Italia. Le imprese si attendono una flessione dell'occupazione nei prossimi mesi. La caduta della domanda può colpire con particolare intensità le fasce deboli e meno protette. I lavoratori precari, i giovani, le famiglie a basso reddito. Il governatore chiede al governo una riforma organica del lavoro con l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori. Poi l'atteso capitolo banche. Per Draghi sono pressanti nuove ricapitalizzazioni e, senza fare riferimento ad ipotesi di nazionalizzazione, invita i banchieri a fare uso dei Tremonti Bond. Se i fondi messi a disposizione dallo Stato sono di dimensione adeguata, se le condizioni che accompagnano gli interventi sono ragionevoli e concrete, non si esiti ad utilizzarli questi fondi. La nostra Deborah Rosciani nel suo servizio, ma poi anche le parole stesse di Draghi che abbiamo appena riascoltato, si sono soffermati sui Tremonti Bond, che nelle intenzioni del ministro dovranno essere d'aiuto soprattutto alle piccole e medie imprese. Mercoledì arriva il via libera ufficiale proprio ai Tremonti Bond e allora ci spiega tutto Sergio Nava. 5 giorni dopo il nulla osta definitivo dell'Unione Europea, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha firmato il decreto che autorizza il Ministero del Tesoro a sottoscrivere le obbligazioni emesse dalle banche italiane. L'obiettivo è, nelle intenzioni, quello di accrescere le opportunità di finanziamento all'economia mediante una maggiore patrimonializzazione delle banche. In termini più semplici, il governo sottoscriverà dei prestiti sotto forma di obbligazioni che gli istituti di credito remunereranno inizialmente a tassi annuali compresi tra il 7,5 e l'8,5%, fondi liquidi che permetteranno alle banche un aumento di capitalizzazione. In cambio, gli istituti di credito che aderiranno ai bond dovranno accolarsi una serie di oneri sociali, tra questi l'aumento delle risorse per il credito alle piccole e medie imprese, il contributo finanziario per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia delle PMI e la sospensione per almeno un anno del pagamento della rata del mutuo per disoccupati o casse integrati. Tremonti sintetizza così alla TG3. Sono soldi per le imprese, soprattutto medio piccole, per le famiglie. I banchieri che vogliono questi soldi per le imprese dovranno comunque adottare un codice etico. Ieri intanto il commissario europeo agli affari economici Joachim Almunia ha dato come previsto l'ok al pacchetto anticrisi varato dal governo. Nessuna procedura di infrazione contro l'Italia per ora, ma un invito pressante ad aggiustare i conti pubblici. Quella che è appena trascorsa è stata anche una settimana all'insegna delle multe. Multe che arrivano prima dal garante delle telecomunicazioni, che infligge appunto una sanzione di diversi milioni di euro a 5 operatori della telefonia mobile. Ma la multa più salata è quella che l'antitrust infligge nel settore della pasta. Ecco come e perché in questo servizio di Anna Marino. Caro pasta, nel mirino dell'antitrust, che ha inflitto una multa per un totale di 12 milioni e mezzo di euro a quello che definisce un cartello, formato da Unipi, Unione Industriali Pastai Italiani e 26 produttori, il 90% circa del mercato, avrebbero creato un'intesa restrittiva della concorrenza con lo scopo di concertare gli aumenti del prezzo di vendita della pasta secca di semola da praticare alla distribuzione. Si dice sorpreso come i singoli produttori, il presidente dei pastai, Massimo Menna, proprietario del pastificio Garofalo, una delle società colpite dalla multa, che smentisce l'intesa e annuncia ricorso. Non esiste e non è mai esistita alcuna intesa. L'aumento che c'è stato dei prezzi è stato un aumento che ogni azienda ha deciso in maniera indipendente ed era un aumento ampiamente giustificato, anzi praticato in maniera anche contenuta rispetto a quelli che sono stati i picchi di aumenti delle materie prime, più che triplicate. L'associazione farà ricorso nelle sedi più competenti e così anche la mia azienda e penso anche le altre aziende. Soddisfatti della sanzione i consumatori che ora parlano di risarcimenti. Ieri intanto abbiamo saputo che in Italia l'occupazione nelle grandi imprese, cioè le imprese che hanno più di 500 addetti, è scesa a dicembre dello 0,7% rispetto all'anno precedente, mentre è rimasta invariata rispetto a novembre scorso. E sempre ieri c'è stato uno sciopero a Pomigliano d'Arco nello stabilimento della Fiat. Ci racconta tutto Laura Viggiano. Chiuso per sciopero, così negozianti e cittadini con striscioni hanno sottolineato il loro essere solidali con gli operai dello stabilimento Fiat di Pomigliano, che da mesi sono in cassa integrazione. Circa 10.000 persone hanno manifestato questa mattina in corteo tante delegazioni di diverse realtà, anche il vescovo di Nola, Beniamino De Palma, una quindicina i gonfaloni dei comuni dell'Interland e della provincia partenopea, studenti, una delegazione di cittadini di Chiaiano che da tempo lottano contro la discarica aperta a Napoli per fronteggiare l'emergenza rifiuti, esponenti dei sindacati di categoria che hanno organizzato la manifestazione. Se qualcuno pensa di chiudere lo stabilimento di Pomigliano, se lo tolga dalla testa, nessun stabilimento Fiat può chiudere, ammonisce il segretario generale della FIOM CGL Gianni Rinaldini, chiedendo chiarezza sul futuro del gruppo e preannunciando una manifestazione nazionale del settore auto e componentistica. Lunedì. Tra i temi caldi di questi giorni non possiamo certo ignorare il ritorno al nucleare in Italia dopo 20 anni, anzi di più. Il ritorno sancito dall'accordo siglato tra Italia e Francia. Per inquadrare però la questione, prima di sentire i dettagli dell'intesa tra Berlusconi e Sarkozy, riascoltiamo la scheda di Cristina Balotelli. È di fonte nucleare il 35% dell'energia elettrica consumata in Europa, dove sono in funzione 197 centrali, destinate ad aumentare di numero a breve. I dati, forniti nell'aprile 2008 dalla European Nuclear Society, evidenziano come la Francia sia, con i suoi 59 impianti, al top della produzione. Circa l'80% del fabbisogno elettrico del paese arriva dall'atomo. Più della Russia, che ha 31 impianti e ne sta realizzando altri 7. Forte è anche la presenza del nucleare in Germania, dove sono in funzione 17 impianti, e nel Regno Unito, che ne ha 19. In Italia abbiamo 4 impianti disattivati: quello di Garigliano, in provincia di Frosinone, di Trino Vercellese, di Latina e di Caorso, in provincia di Piacenza. Abbiamo chiesto a Chicco Testa, ex presidente dell'Enel, dove potrebbero essere costruite nuove centrali in Italia. I 4 impianti che ci sono in Italia non possono più essere utilizzati perché avevano già concluso la maggior parte di loro la loro vita all'epoca del referendum e comunque sono di una tecnologia ormai superata. Questo non vuol dire che non si possono riutilizzare quei siti che erano stati individuati secondo criteri di sicurezza che sono quelli tipici per localizzare centrali nucleari. Con un referendum nel 1987 l'Italia ha detto no al nucleare, ma a meno di 200 chilometri dai nostri confini si trovano 13 impianti che in caso di incidenti è come se fossero sul nostro territorio. E veniamo all'atteso appuntamento di martedì a Roma con il vertice tra Italia e Francia. La notizia forte naturalmente è quella sul nucleare, anche se un'altra parola riecheggia soprattutto nelle parole di Berlusconi ed è nazionalizzazione, una parola peraltro di moda persino in America. Sentiamo da Roma Elisabetta Fiorito. Nessuna nazionalizzazione delle banche, ma sì al ritorno al nucleare. Questi due punti trattati dal premier Silvio Berlusconi nel vertice italo-francese con il presidente Nicolas Sarkozy. Nella splendida cornice di Villa Madama, il presidente del Consiglio ribadisce: in certi paesi probabilmente la decisione di arrivare a una nazionalizzazione delle banche è una decisione migliore rispetto al fatto di dare soltanto dei fondi alle banche. Per quanto riguarda l'Italia, questa è una soluzione naturalmente che non è in nessun modo ipotizzabile, perché il nostro sistema bancario, per nostra fortuna, è un sistema bancario molto solido. Altro capitolo invece è quello del ritorno al nucleare, che il governo vede con favore. Firmato un accordo tra Enel e EDF per la costruzione di 4 centrali di nuova generazione, la prima in funzione a partire dal 2020. Avremo al nostro fianco gli amici francesi che ci hanno messo a disposizione il loro know-how e questo ci consentirà di poter iniziare la costruzione delle centrali in un tempo assolutamente contenuto. Adesso devo aprire una piccola parentesi, sempre riguardante il vertice a Villa Madama, perché Berlusconi si è lasciato andare anche ad una battuta che i francesi poi non hanno gradito molto, una gaffe possiamo dire, perché il premier in conferenza stampa avrebbe sussurrato a Sarkozy: io ti ho dato la tua donna, con riferimento evidente a Carla Bruni, e Sarkozy ha abbozzato con un sorriso non proprio felicissimo. Ma torniamo al nucleare, perché Radio 24 in questi giorni ha raccolto molte voci sul tema, non tutte naturalmente sulla stessa linea. Non c'è dubbio infatti che si è riacceso il dibattito sul nucleare ed è tornato a dividere il fronte dei favorevoli da quello dei contrari. In particolare Gianni Silvestrini, che è presidente del Kyoto Club, il gruppo di imprenditori di Confindustria che ha scelto di investire in energie rinnovabili, sul nucleare ha qualche dubbio, come conferma al microfono di Cristina Carpinelli. Noi ci troviamo di fronte a degli obiettivi al 2020 molto ambiziosi sul versante della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e delle fonti rinnovabili, obiettivi legalmente vincolanti, cioè pagheremo sanzioni se non li raggiungeremo. In particolare per le fonti rinnovabili si tratta di investimenti di carattere gigantesco, 350 miliardi di euro solamente per la parte di elettricità verde. In sostanza, per le nostre industrie, sul versante delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, si apre una straordinaria occasione di produzione di tecnologie e così via. Sul nucleare temo che appunto chi si avvantaggerà sono le industrie francesi. Ma io mi sono fatto un'idea di momenti in cui si parla di riscaldamento del pianeta, prezzi di energia che l'anno scorso erano molto alti, adesso sono bassi ma torneranno alti, ci sia tentazione da parte del mondo politico, da parte di un pezzo del mondo delle imprese, di trovare una soluzione salvifica che risolva tutti i problemi. Il nucleare ha dimostrato di non essere una soluzione così salvifica. Io penso che nel momento in cui adesso le industrie dicono faremo tutto con i soldi nostri, non prenderemo soldi dallo Stato, io temo che nel momento in cui si andrà al concreto si arriverà a un'altra formula tipo quella del CIP 6 di 15 anni fa, e cioè che andrà a finire sulle bollette una parte del costo degli investimenti nucleari, perché parliamo di cifre colossali. L'ottavo giorno. Martedì. Giornata di calcio, anzi serata di calcio straordinario, europeo e per noi italiani in particolare a Milano e a Londra. Infatti, delle tre squadre di casa nostra che sono impegnate in Champions League, l'Inter ospita il Manchester United, campione d'Europa e del mondo, mentre la Roma gioca in uno degli stadi direi più belli del mondo, quello dell'Arsenal. Non c'è dubbio che la sfida più chiacchierata, soprattutto perché di mezzo c'è uno che si chiama Mourinho, è quella di San Siro. Per Radio 24 l'ha seguita Giovanni Capuano. 1-0-0 due facce, tanto troppo Manchester nel primo tempo, meglio l'Inter nella ripresa, equilibrio che sarà l'Old Trafford tra due settimane a spezzare. Inizio shock degli inglesi, Giulio Cesar decisivo tre volte nella prima mezz'ora su Cristiano Ronaldo e Giggs. Incontenibile il portoghese con lui Berbatov e lo stesso Giggs, tanto da costringere Mourinho a sostituire lo spesato Rivas con il più esperto Cordoba nell'intervallo. Nella ripresa la metamorfosi, l'Inter si trasforma, costruisce due palle gol con Adriano e sugli sviluppi di un angolo di Balotelli, rischia anche in contropiede salvata da Cordoba su Giggs e dal solito Giulio Cesar, dà però l'impressione di essere in partita, finisce con tre punte perché Mourinho prova anche a vincerla fino all'ultimo. Finisce 0-0, applausi al Manchester e in parte anche per i nerazzurri, per l'Inter una speranza lunga ancora 90 minuti. Dopo questo 0-0 naturalmente l'Inter non può sorridere, soprattutto per la lezione di calcio che ha subito nel primo tempo. Però anche la Roma ha i suoi problemi, infatti al ritorno dovrà rimontare la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo dell'Arsenal. Mercoledì chiude il programma delle italiane in Champions la Juventus. Altro avversario inglese bello tosto, il Chelsea di un vero mago della panchina, l'olandese Iddink. Sentiamo la cronaca di Carlo Genta. La Juventus perde di misura a Stamford Bridge e resta viva, proprio come Roma e Inter, anche se per la verità la battaglia d'Inghilterra non prende una gran piega per le nostre. A Londra Ranieri si fa pigliare la mano dall'ottimismo e rinuncia all'energia di Marchisio in mezzo al campo per la frusciante leggerezza, o evanescenza se preferite, di Thiago. Il prodotto è un primo quarto d'ora da brividi caldi, con l'onda blu del Chelsea che va a picchiare direttamente contro la difesa juventina. Tre palle d'oro per quel diavolo di Drogba che sbaglia di testa la prima e la terza, ma tra le due sbatte in rete l'assist verticale di Kalou. Per qualche minuto si sente la puzza dello zolfo della goleada, poi la Juventus si sistema un po' e il Chelsea capisce che il primo dei peccati mortali sarebbe quello di rischiare troppo. La ripresa infatti è più equilibrata e su ritmi più tranquilli, tanto che Amauri, Del Piero e Marchionni, entrato al posto di Camoranesi di nuovo rotto, arrivano a dar fastidio a Cech, che suda freddissimo all'ultimo secondo quando il sinistro di Nedved, deviato da Alex, passa a un dito dal palo. Il bilancio finale è tristissimo per le italiane perché su 3 partite si segnalano 2 sconfitte, 1 pareggio, 0 gol fatti, però il bello del calcio è che tutte e 3 le squadre hanno ancora la possibilità di qualificarsi nel ritorno. Giovedì invece il Milan sprofonda in Coppa UEFA. Da Milano, Cristiano Rui. Il Milan esce anche dalla Coppa UEFA e la stagione rossonera rischia di diventare disastrosa. La conferma di Ancelotti sulla panchina a fine anno a questo punto è improbabile. Il Werder Brema passa agli ottavi di finale dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 per il Milan, grazie a un rigore di Pirlo e a uno strepitoso gol di Pato. Nella ripresa inspiegabilmente i rossoneri si chiudono nella loro metà campo, lasciando l'iniziativa ai tedeschi, che sfruttano le palle alte e pareggiano con doppietta di Pizarro. Il 2-2 li premia, dopo l'1-1 dell'andata. Sul banco degli imputati finiscono tutti, dalla squadra alla società, e soprattutto l'allenatore. Domenica prossima il Milan ritroverà Kakà a Genova, in una partita fondamentale per il raggiungimento almeno del terzo posto in campionato. Continuiamo su questo filone del calcio che devo dire in questi giorni offre molti spunti e domani tra l'altro c'è un Inter-Roma di campionato tutto da seguire. Giovedì una delle bandiere della Juve di questi ultimi anni, l'ex pallone d'oro Pavel Nedved, annuncia il ritiro a fine stagione. Il servizio è di Dario Ricci. Questa è la mia ultima stagione che sto facendo, ho deciso insieme alla mia famiglia, credo che sia il momento giusto di ritirarmi. Le parole sono chiare ma lo sguardo sogna rivincite. Pavel Nedved, ancora ferito dall'unghiata di Drogba che ha firmato l'1-0 del Chelsea a Stamford Bridge, annuncia che a giugno dirà addio al calcio giocato. A 36 anni è il momento giusto, spiega l'ex pallone d'oro, che però subito rilancia. Prima voglio vincere la Champions. In casa romanista il 35enne Panucci mette da parte l'orgoglio, chiede scusa a Spalletti per il no alla panchina a Napoli e torna a disposizione già per la sfida con l'Inter di domenica. Perché gli anni avanzano e gli acciacchi si sentono, ma l'obiettivo di Pavel e Christian è lo stesso, chiudere alla grande. L'abbiamo riascoltato anche negli ultimi servizi, il calcio, si è capito, non ha dato grosse soddisfazioni ai nostri colori in settimana. Meglio dunque consolarsi e consolarci con lo sci di fondo, perché martedì è una giornata trionfale per l'Italia. Dario Puppo. Non poteva che essere d'oro la volata di Arianna Follist nei mondiali di Liberec. La Valdostana ha infatti un rapporto speciale con le sprint che si disputano in Repubblica Ceca, dove è imbattuta da 4 gare. L'azzurra è stata praticamente perfetta, dopo essere stata seconda nelle qualificazioni e nelle prime 2 batterie in finale ha inserito una marcia in più per staccare tutte le avversarie. Nell'ordine la statunitense Randall e la finlandese Muranen, prima campionessa di specialità nel 2001. Con questo successo diventano 4 di file grandi appuntamenti tra mondiali e olimpiadi, nei quali la squadra italiana ha sempre conquistato almeno un titolo. La vittoria al femminile mancava però da 10 anni, dal quarto sigillo ridato di Steffi Belmondo. Parlare di sport però in questa puntata dell'ottavo giorno significa soprattutto ricordare Candido Cannavò, una vita trascorsa alla Gazzetta dello Sport, scomparso domenica a 78 anni. Ai funerali a Milano sono presenti tantissimi colleghi e tanti campioni dello sport. Il ricordo di Radio 24 è firmato da Dario Ceccarelli. Ragazzacci, era il suo modo di chiamarci noi giornalisti sportivi degli anni 80, quando lui dal suo ponte di comando faceva diventare la Gazzetta il quotidiano italiano più diffuso. Anche se si stava in altri giornali, eravamo le sue truppe d'assalto, quelle che hanno fatto diventare lo sport non più un settore specialistico, ma un settore trainante dell'informazione, che anzi avrebbe presto condizionato nel linguaggio e nelle formule tutto il giornalismo italiano. Cannavò concluse questa rivoluzione intuendo una cosa, che ormai con la TV, l'evento sportivo l'avevano già visto tutti. Nei giornali bisognava andare oltre, cercare il personaggio, il lato umano, la polemica sanguigna, che poi i suoi mediocri emuli fecero diventare processi e pettegolezzi. Ma lui era di un'altra pasta, perché amava scrivere e raccontare, soprattutto gli piacevano le storie, Maradona e Pelé, Pantani e Coppi. Sotto il talento cercava l'uomo, il pulsare delle passioni. Mondiali di calcio, Olimpiadi, Tour de France, Giri d'Italia. Gli piaceva esserci, scrivere fino a tardi, in sala stampa. Candido ma non ingenuo, amava gli aggettivi barocchi, ma li sapeva miscelare con mestiere. Ogni tanto gli scappava un fantastico, ma quando ci vuole, e non si stancava mai. Lo si è visto quando ha lasciato la direzione della Gazzetta. Sgravato dalle responsabilità, ha dato il meglio di sé. La lotta feroce contro il doping nel ciclismo, contro il malaffare nel calcio, gli hanno conferito una statura ancora superiore, come i suoi libri di forte impatto civile, sui disabili e su chi si è perso dietro le sbarre di un carcere. L'ultimo suo libro, Pretacci, era un'affettuosa testimonianza su quegli uomini, sempre più rari, che portano il Vangelo sui marciapiedi. Di uomini così, si diceva una volta, si è perso il famoso stampino. Anche Cannavò era così. Noi ragazzacci, anche se il tempo stringe, quello stampino lo stiamo ancora cercando. Mercoledì. A Napoli è in corso dalla sera di martedì del giorno precedente la caccia ad un uomo tra i 40 e i 50 anni accusato di violenza carnale su un ragazzo di 12 anni. La svolta arriva in realtà in pochissime ore, ci racconta tutto il corrispondente da Napoli, Enzo Danna. Tre anni fa era stato indagato per violenza sessuale nei confronti della nipotina della compagna, che oggi ne ha 9 e vive ancora con lui nella stessa casa, dove c'è anche un altro bambino. Pasquale Modestino, 53 anni, è accusato di avere stuprato il 12enne adescato nella zona di Piazza Carlo III. L'uomo, arrestato dalla polizia, è stato identificato dalla giovane vittima. Si tratta di un operaio del servizio fognature del comune. L'altra sera, con un pretesto, ha avvicinato il bambino, poi gli ha strappato l'orologio e lo ha indotto a seguirlo nel vicoletto, dove lo ha seviziato usando anche un bastone. Il 12enne, assistito da una psicologa, sembra reagire bene al trauma subito. Le sue condizioni sono buone ed ha già lasciato l'ospedale. Non c'è dubbio che uno dei dettagli più sconcertanti di questa storiaccia è che il presunto pedofilo era già stato indagato per violenza ad una bambina. Ecco che cosa ha detto su questo punto a Radio 24 nella GR Extra Large di giovedì il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovan Domenico Lepore. Il signore che è stato fermato per l'ultimo episodio, che è avvenuto pochi giorni fa nel danno alla bambina di 12 anni, era stato 3 anni fa denunziato da una signora che aveva in affidamento un altro bambino, accusandolo di atti di libidine, di atti osceni e così via di seguito. Però da questo accertamento, dato che già dalle prime dichiarazioni sembrava qualcosa che bisognava accertare attentamente, perché qua non bisogna automaticamente va qualche, la denuncia non era stata fatta chiaramente dal bambino, ma da chi aveva il bambino, che era un parente di questo, del bambino stesso. E quindi naturalmente si è cominciato a fare delle indagini, sono sorti dei problemi sull'attendibilità di quello che andava dicendo il bambino. Infatti è intervenuto anche al psicologo, si è fatto una certa indagine che ha richiesto del tempo, perché naturalmente quando accusare sono dei bambini sono facilmente influenzabili, bisogna capire effettivamente fino a dove c'è la verità. Evidentemente il collega non ha ritenuto di avere degli elementi che potesse giustificare un intervento con una misura cautelare. Ora è stata fatta da parte nostra una richiesta di rinvio a giudizio che pende davanti al GIP. D'altra parte l'obiettività, la gravità del fatto è una cosa, la responsabilità e l'identificazione dell'autore, che richiede l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza nei confronti di una persona per giustificare una misura cautelare, è un'altra cosa. Ed ora un quadro di Cristina Carpinelli sulla pedofilia in Europa e soprattutto delle leggi che sono in vigore nei diversi stati. L'Unione Europea non ha mai legiferato sulla pedofilia e quindi ogni stato ha leggi differenti. In Italia non esiste una legge interamente dedicata al tema e ai reati annessi, ma quella attualmente in vigore appare in linea con altri paesi europei. Sappiamo che la pena per reati sessuali sui bambini minori di 14 anni va dai 5 ai 10 anni di reclusione. È più grave la pena, da 7 a 14 anni, se il bambino ha meno di 10 anni. La pedofilia è punita con il carcere a regime duro, secondo il regime previsto dall'articolo 41 bis. In Italia inoltre è perseguibile il turista sessuale italiano che abbia abusato all'estero di minori. In molti paesi europei gli anni di detenzione sono molto simili a quelli previsti dalla legge italiana. Esiste però una gravissima lacuna ancora in molti paesi dell'est europeo, come la Bulgaria, dove tra l'altro la pedofilia è collegata al problema della prostituzione minorile. Più dura la risposta francese, l'abuso su un minore è punito con 15-20 anni in media di carcere. In Danimarca, per i casi più gravi, si ricorre alla castrazione chimica. Resta da segnalare il tentativo, per ora ancora embrionale, di Strasburgo di dare vita a una banca dati sui pedofili, perché così schedati siano facilmente identificabili in ogni angolo d'Europa. Il progetto è stato approvato dal Parlamento europeo e ora sta ai singoli stati accogliere l'indicazione. In Italia se ne sta discutendo. In sostanza, chi è stato condannato da un tribunale per abusi sessuali contro i minori dovrebbe essere schedato e i suoi dati inviati all'Europol per poi essere smistati agli organi di polizia dei singoli stati. L'ottavo giorno. Giovedì. Come promesso, adesso ci spostiamo in America, perché ieri il prodotto interno lordo ha segnato dei dati davvero drammatici. Nel quarto trimestre 2008 infatti è stato rivisto al ribasso, passando al 6,2% in meno rispetto a un 3,8% iniziale. Giovedì invece Obama presenta alla nazione la sua prima vera grande manovra economica. E allora riascoltiamo i dettagli con Sergio Nava. Una maxi finanziaria da 3.600 miliardi di dollari per il 2010 a fronte di un deficit record 2009 pari a 1.750 miliardi, il 12,3% del PIL. Barack Obama annuncia la sua prima vera manovra da presidente introducendo fin da subito il suo stile. I work for the American people. La prima frecciata la riserva al predecessore George Bush. Questo budget è onesto, per anni non vi è stata detta la verità a fondo. Obama e che le priorità siano cambiate il neopresidente lo rende chiaro fin da subito. Sanità, educazione ed energia sono ora in primo piano con l'estensione della copertura medica che da sola assorbirà 634 miliardi in 10 anni. 120 miliardi andranno invece alle energie rinnovabili. Gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: rilanciare la crescita già dal prossimo anno con una ripresa economica prevista superiore al 3% e ridurre il disavanzo statale a 533 miliardi nel 2013. Unico punto in comune con Bush, per paradosso, il bilancio della difesa che il prossimo anno crescerà di 20 miliardi. Ma chi pagherà il conto nei prossimi anni? By rolling back tax cuts for the wealthiest Americans. Anche in questo Obama ha invertito la rotta. Saranno i più ricchi, i percettori di redditi superiori ai 250 mila dollari, a veder crescere le imposte. Contemporaneamente salirà al 20% l'imposizione fiscale su capital gains e dividendi, mentre caleranno le tasse per i ceti medio-bassi della popolazione. Obama ha detto e fatto molte cose, l'abbiamo anche ricordato prima della pausa in questa settimana. Per esempio ieri ha annunciato che ci sarà un ritiro effettivo dall'Iraq delle truppe americane nel 2010, poi vedremo se tra il dire e il fare ci sarà il famoso mare in mezzo. Però uno dei momenti più alti, più simbolici, più importanti di questa settimana, ma anche di sostanza, è stato sicuramente il primo discorso che Obama ha pronunciato al Congresso martedì. Torniamo quindi a quella serata con Mario Platero. Siamo alla resa dei conti con questa frase. Barack Obama ha cercato ieri notte di scuotere gli americani dall'apatia psicologica in cui si trovano nel mezzo di questa terribile crisi economica. Lo ha fatto con un discorso alla nazione drammatico, incisivo e per una volta ottimistico, in cui ha promesso che il carattere e la forza delle idee prevarranno sul pessimismo. Anche se viviamo in tempi difficili, ha detto Obama, voglio che ciascun americano sappia che ricostruiremo, ci riprenderemo e gli Stati Uniti d'America riemergeranno più forti di prima. Un ottimismo di stampo reaganiano, un discorso di 52 minuti, 60 ovazioni, Michelle, la moglie in sala, nel Parlamento riunito in seduta plenaria, circondata da persone simbolo dell'eroismo americano. Obama ha promesso che il suo piano di stimoli funzionerà, che le sue spese nell'educazione, nell'energia, nella sanità ricostruiranno le fondamenta morali ed economiche del paese, riporteranno il lavoro. L'obiettivo era anche quello di convincere il mercato, che finora non l'ha seguito, che la sua leadership sarà davvero in grado di trascinare il paese, come ha dimostrato la sua straordinaria e storica vittoria elettorale. Ma le incertezze sul settore bancario restano e su quelle Obama ieri notte non ha detto nulla di nuovo. Sempre martedì, oltre ad Obama, parla Bernanke, il gran capo della Federal Reserve, che annuncia tempi cupi, durissimi per gli Stati Uniti. Riascoltiamo Alessio Maurizi, che tra l'altro fa riferimento a Citigroup, che nel frattempo ieri poi ha raggiunto un accordo con il Tesoro americano per, leggo testualmente dal comunicato, convertire una significativa porzione dei suoi titoli privilegiati in azioni ordinarie della banca. In pratica Citigroup ha chiesto ed ottenuto la partecipazione del governo americano, che è così disposto a convertire addirittura fino a 25 miliardi di dollari di titoli privilegiati. Ma come detto, riascoltiamo Alessio Maurizi. Sarà il polverone sollevato da Citigroup, il gigante del credito in difficoltà, per il quale il governo pensa a una parziale nazionalizzazione. Sarà che ogni giorno ci sono casi nuovi, oggi quello del gruppo assicurativo AIG, in procinto di dichiarare perdite senza precedenti. Sta di fatto che i cittadini americani sono sempre più preoccupati dalla situazione economica. L'umore dei consumatori, misurato dal Conference Board, nel mese di febbraio è crollato al minimo record, 25 punti dai 37 di gennaio. E che non si tratti solo delle paure dell'uomo della strada, lo dimostrano le parole del presidente della Federal Reserve, Bernanke. Avremo una ripresa solo nel 2010 e solo se i mercati e le banche si saranno stabilizzati, ha detto. A questo fine, ha spiegato il numero uno della banca centrale, saranno decisive anche le politiche dell'amministrazione. Se avranno effetto, la recessione finirà quest'anno. Parole che sembrano tuttavia mettere in dubbio proprio la certezza dell'efficacia delle misure sin qua adottate. Di parere diverso, la borsa di Wall Street, che sin qua oggi è stata positiva. Venerdì. Beppino Englaro non conosce pace. La sua vicenda, che direi comunque la si pensi è stata ed è dolorosa e infinita, proprio ieri si arricchisce di un nuovo sviluppo. Intanto la legge sul testamento biologico, che molte divisioni ha scatenato in questi giorni nella maggioranza, ma anche nel Partito Democratico, per esempio c'è la posizione piccata di Rutelli, si avvia ad un nuovo rinvio. Sentiamo Raffaella Calandra. Un invito a non avere fretta. Nel giorno in cui si consuma l'ultimo capitolo della vicenda Eluana, con l'accusa di omicidio volontario per il padre da una parte e di violenza privata per il ministro Sacconi dall'altra, il dibattito politico registra l'appello del presidente del Senato, Renato Schifani, a dare ogni spazio alla discussione. Se si tratterà di dover lavorare qualche settimana in più in commissione per garantire ampiezza di dibattito, ma l'elaborazione di un testo il più largamente condiviso, non ci dobbiamo fermare alla perentorietà dei termini. Per la seconda carica dello Stato, queste indagini confermano la necessità di una pronuncia del Parlamento. A Udine, Beppino Englaro, insieme ai 13 componenti dell'associazione costituita per interrompere l'alimentazione ad Eluana, secondo la sentenza milanese, sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo l'esposto del comitato Verità e Vita. È un atto dovuto per separare le denunce dirette a persone dagli esposti generici, spiega il procuratore friulano Biancardi. Ho agito nella legalità, sono tranquillo, commenta Englaro. Dopo Roma arriva invece da Trieste il secondo avviso di garanzia per Sacconi, sempre per quel suo atto di indirizzo che sollecitava le regioni a non staccare il sondino ad Eluana. A tutto questo si aggiunge l'attacco del cardinale Barragan. Se Beppino ha ammazzato la figlia è un omicida, dice. La replica è del parroco che ha celebrato i funerali di Eluana. Gli uomini di chiesa moderino il linguaggio. Per chiudere con l'ottava notizia, torniamo negli Stati Uniti grazie agli Oscar che vengono assegnati nella notte di domenica. Il servizio di Marta Cagnola. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. The Oscar on behalf of Heath Ledger are his father, Kim Ledger, his mother, Sally Bell, and his sister, Kate Ledger. Questo è il momento più emozionante dell'81esima notte degli Oscar. Un premio certo annunciato, quello postumo a Heath Ledger per Il Cavaliere Oscuro, in una notte che ha segnato il trionfo di The Millionaire. 8 statuette su 10 nomination, tra cui miglior film, miglior regista, miglior canzone originale, colonna sonora, suono, montaggio, fotografia, sceneggiatura non originale. Grande sconfitto il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher, 13 nomination e solo 3 statuette portate a casa. Avevo 8 anni e sognavo di ritirare questo premio. Stavolta non è una bottiglietta di shampoo, dice commossa Kate Winslet, che con The Reader conquista l'Oscar al 6° tentativo. Miglior attore Sean Penn. We've got to have equal rights for everyone. Tutti devono avere gli stessi diritti. Queste le parole di Penn, che in Milk interpreta il primo politico omosessuale americano. Miglior attrice non protagonista Penelope Cruz per Vicky Cristina Barcelona. Miglior lungometraggio d'animazione Wall-E, miglior film straniero, il giapponese Departures. Abbiamo finito anche per oggi, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do l'appuntamento alla settimana prossima alle 10 o alle 23 in replica.